I pomodori li mangi, sì. Pomodori e mozzarella, anche quello. Il tonno. Vedi, quello che mangiava solo il tonno una volta a settimana. Vedi, quello che mangiava solo la pasta, vedi? Oh, mangio pasta, tonno, olio. Lo mangia l'olio. Costano. Pomodori e mozzarella. Costano. Si contano sulle dita di una mano le cose. E io sai cosa mangio? Ma se mangi di merda non è colpa mia. Però tu mangi di merda. Non è vero. Si chiama alimentazione mediterranea. No, dieta mediterranea. Anche un nome. Comunque la compro io quella roba. E mica te lo chiedo io. Tu mi dici cosa devo prendere da mangiare, io ti dico niente. La carta igienica per pulirti il culo, chi la paga? Te lo chiedo io. Ma io che non, cazzo ti pulo io, non, io l'unica cosa che ti chiedo sono il tabacco, le cartine. Anche! Mi hai fatto venire in mente che anche quello ti pago. Oltre a darti la paghetta siamo arrivati a 100 euro al mese che mi devi dare. No, dai, serio. Sgancia? Mi sparaggi il posizione del Twitter. No, fanculo, questo sono 2 euro. Non lo so. 2 euro. Dove? Pure tu, Antonio, vedi che sta. Vai, vecchio, cazzo te, lo butta per terra. Ah! Fallo per terra, vecchio. Però se ti do 2 canne se lo fai cadere. Cioè, buttalo per terra, vecchio. No, per terra non lo fa. Fallo, buttalo per terra. Non lo fa. Ma non lo faccio per principio, non lo butto per terra. Cioè, poi secondo te, guarda che lurido che è, secondo te sarà normale? E se non passo io, rimane così, eh? Non va bene! Giuseppe, ma vaffanculo a mamma, va. Che cazzo è sto qua? Cavallo di una bici. Cioè, guarda là! No, ma secondo te è normale? Porco. No, dimmi se è normale tutto questo. Poi si incazza pure quando vengo a pulire. Ma questo sono uno fa'culo, ho fa'culo! L'ho pulito! Domani vatti a buttare tutto sto pattume. Comunque sono 100 euro al mese le tue spese per stare in casa. E sono anche scontate. Quando me ne voglio te ne do 30 al mese. Per che cosa? Per la camera che non, non me ne frega un cazzo, te ne vai, non voglio niente, come non m'hai mai dato niente, la camera diventa mia. Ci mancherebbe altro, sono tuo figlio, porca troia. Hai 18 anni, non sono comunque, più, forse... non sono più tenuta a mantenerti. Allora, aspetta, e forse mi hanno finito il giro di colloqui, la Comet, da quello che ho capito mi hanno tenuto in considerazione. Buono. E in più martedì devo andare al CHOFS a parlare per appunto vedere... Perché mi fanno che delle aziende stanno cercando degli elettricisti e andavo a sentire. Bravo. Quindi ho queste 2 cose. Buono, cioè, io curriculum ne ho mandati appunto per. Vabbè, cazzo. Adesso guarda queste 2 cose qua, ma te l'ho sempre ti detto. Vedere il messaggio. Non ti sta mica cadendo il tetto, cioè il tetto sopra la testa. Leggiti questo messaggio. Adesso. Se non ho capito male. Poi appunto le ho chiesto. Se non ho capito male. Sì, sì. Oh, lì è buono, parte già da 1200 al mese. No, loro vorrebbero inserirti, nel senso che ti vogliono assumere. Ah, buono. Comunque, era meglio che rispondevi, sì, sono interessato. Ho visto tardi. Vabbè. E in più ho capito, cioè, non me l'ha detto in specifico. Cioè, no, comunque al massimo domani mattina mandale un messaggio. No, è domani, è domenica. Vabbè, tu glielo mandi, lo legge lunedì. Dici, comunque ho letto meglio il tuo messaggio, sì, sono interessato ad andare a lavorare lì. Così lunedì ti contatta subito, domani scriviglielo proprio già così, ok? Tanto lei è un cellulare aziendale, lo vede lunedì. Quindi scrivigli proprio così, perché scusa, se alla Comet parti da 1200 e comunque ti fai anche esperienza un po'... Lì te ne fai varia, ti fai esperienza di logistica, magazzino, commesso, meno male sono quei lavori che trovi sempre. Se mi prendevano lì ero contento. No, là vai bene, vai. Lì vai bene, poi tranquillo, fai i turni. Non faccio i turni. caffè centrale? 8 ore, in più ci sono 2 ore di pausa a mezzogiorno. E vabbè, ma alle 7:30. Ascolta, però è questione d'abitudine, sabato e domenica a rotazione, giusto? Se non sbaglio il sabato devo andare. La domenica sei a casa e poi avrai un altro riposo in settimana. Esatto. E vabbè, ascolta, sai cosa? Di quel riposo che hai in settimana, alla fine... Ti smezza la settimana. Ti smezza la settimana, ma ti viene comodo, sai perché? Perché se sei a casa sabato e domenica, quando devi andare in un ufficio da qualche parte, devi chiedere dei gran permessi, ti giochi tutte le ferie e permessi. Vabbè, ma come sono io non... Però crescendo magari ti serviranno. Cioè lì non rimango tanto. Vabbè. Mi faccio i miei soldi che mi devo fare. E poi? Dove vai? Boh, da qualche parte. Adesso un po' di soldi da parte. Non me ne manca troppo. Tu devi prendere ancora la patente. No. Sì, però cioè, non... Comunque appena vai... Madame. I poster con tutti i coniglietti, gli unicorni. Madame, davvero. Eh? Ma davvero? Dai, cioè, a parte gli scherzi, se me la tocchi, io veramente strippo. Allora, sappi che se vai via per un po', io vengo a dormire qua. Ma non che, dormo nel suo palco. Vieni a dormire, ok, però... Però la risistemo un po' sta camera. No. La riordino. Ma non la tocco, ma la riordino. Di cosa la riordino? Di cosa? Di cosa? Ma non c'è spazio! Hai messo quei 2 armadi, mamma mia, non... Il problema sono i 2 armadi. Quella roba io l'avrei messa là dietro, mamma. Io non c'è il coso dei panni, diciamo, dove la metto io la roba? Non ho spazio! Non ho cazzo spazio! Tu lì, ti giuro, il mio problema sono quei cazzo di armadi. Ma lì avevi anche l'appendiabiti, l'hai smontato, che ci potevi appendere delle robe. L'hai smontato te? Sì, ma ci puoi metterci poster. Era inutile. Mi metto in terra, non ti cagli un cazzo. Hai capito? Giuro. Ma tu dimmi che sono io. No, per favore. Da figlio, dimmi che sono io. Io vedo il suo punto di vista in quanto figlio. Posso capire il tuo, ma in quanto figlio? È che camera mia, un pezzo di lore. Un pezzo di? Di storia, non puoi smantellarlo. Certo, quando te ne andrai via diventerà camera mia. Tu non sai cosa ha visto sta cazzo di camera. Non lo voglio neanche sapere. Come al solito io ti dico che voglio rimanere nell'ignoranza, non voglio sapere niente. Appunto, non puoi toccare. Ah, sai dove sono andati, dove è andata la scinofila ieri? Al Machiavelli. La scinofila di Bologna. Infatti ho detto, ma andate in tutti i posti scontati dove non trovate un cazzo. Ma Machiavelli, boh, ormai... No, ma a parte quello, vanno nei posti scontati, cioè... Ma loro sanno chi è che spaccia e tutto. Però sembra che la polizia di Imola fa venire la scinofila nei posti dove non beccano un cazzo. Ma, cioè, i posti... ma in realtà loro sanno chi spaccia, chi fa le storie. Li deviano verso altri posti, secondo me. Conviene anche a loro avere criminalità in strada. Mamma, non ci fosse criminalità, loro non avrebbero lavoro. Più c'è criminalità, più loro hanno lavoro e più hanno autorità. Quindi lottare contro la criminalità è come buttarsi la zappa. Che cazzo la fanno venire a fare allora la cinofila? Per mobilitare, danno lavoro. Mansioni inutili, ma almeno li fanno muovere. Se no, se tra virgolette li spostato, li paga per nulla. Sì, effettivamente la cinofila. Quindi, la cinofila, da quello che sto vedendo, non è che fa granché. Perché vanno un po' in stazione a Bologna, che trovano la roba imboscata in qua e là quando trovano qualcosa. Una volta noi siamo andati a Bologna, io e lui siamo usciti dalla stazione, ci fermano, ci fanno dateci documenti. Ma la cinofila o gli altri? Non lo so, io ho preso... La cinofila hanno i cani dietro. Io ho preso, me ne sono andato, a me non mi avevano preso il documento, cioè non mi avevano tra virgolette catturato, lui sì. Quindi poi sono andato a fianco a lui, anche a me mi hanno preso il documento e mi hanno fatto la foto. Ma tu esci dalla stazione, fanno state fermi, adesso li dobbiamo controllare. Ma sono i giovani, tra l'altro. Ma in virtù di cosa ti devono controllare? Capito. Io gli faccio, ma come mai? Cioè, posso chiedere perché loro certo. Un semplice controllo. In che esci dalla stazione, ti vedi lo sbirro e ti dice stai fermo. Sì, devono far scena comunque. Ma come quando mi diceva Roberto che fanno i giri intorno alla stazione, che ci sono gli spaccini lì intorno con i cani, il cane annusa e trovano dei piccoli quantitativi imboscati in qua e là. Cioè quello, poi vanno ai concerti con i cani antiesplosivi, alle manifestazioni, cioè quello fanno, non pensare che chissà che... volessero veramente sconfiggere il problema della droga, si farebbe poco, proprio pochi minuti servirebbero. No, ma va là, come dici tu, fanno scena. Basta semplicemente depenalizzare. Tu non depenalizzi lo spaccio, ma semplicemente l'uso. Già così, capito, eviti veramente un sacco di problemi. Ma sì, come dici tu, è tutta scena, devono mantenere tutte ste figure. Mamma, ma cioè, se ci pensi, i dipendenti statali probabilmente sono la metà degli italiani. Alcuni sono molto sprecati, eh. Appunto. Cioè, mo lascia perdere i dipendenti del comparto della sanità, che quelli servono. Anzi, forse sono gli unici che servono, quelli del comparto della sanità. Ma c'è anche lì, magari. Ce ne sono alcune figure inutili, quello indubbiamente. Però se ci pensi, il comparto della sanità è comunque una cosa che serve. Però anche lì, se tu richiedi un'operazione, ti puoi operare un anno dopo, per quanta gente ci sia a lavorare. Ma non c'entra dalla gente a lavorare, Giuseppe. Quello non c'entra da quello. Sai come funziona l'organizzazione della sanità? Lo Stato quest'anno mi dà 10.000 euro per fare le operazioni al menisco. Aspetta, mi arrivano 20 operazioni, mi costano più di 10.000 euro, devo farla slittare un tot di operazioni all'anno dopo, perché lo Stato non mi ha dato i soldi, non è per il personale, e sono questi che lo Stato non dà. Piuttosto che avere personale in più, diminuisci, magari ci sono dei posti appunto. Ma non è per il personale, i soldi ho capito. I soldi sono per la sala, per quello che ti sto dicendo io è per dare più soldi per magari appunto le operazioni, magari capito appunto togli i dipendenti statali. Nel sanitario, Giuseppe, i dipendenti sono già all'osso da anni. Io parlo di figure inutili. Ah, ok. Perché nel sanitario io ti posso garantire che adesso... Io parlo della gente raccomandata, di gente che veramente non fa un cazzo. Perché, guarda, nel sanitario ti garantisco che adesso si stanno smuovendo i concorsi dopo il Covid, ma per anni, prima del Covid... Nel sanitario sono stati sotto personale, adesso stanno facendo una marea di concorsi perché col Covid si sono resi conto che se capita un'emergenza, una criticità, ci troviamo nella merda come ci siamo trovati 2 anni fa, che non c'è il personale e si è smosso qualcosa. Però che magari ci siano troppa polizia municipale, troppi poliziotti, troppi... quello ti do ragione. Ma adesso ci sono mille tra virgolette guardie di sicurezza, guardie notturne. Ce ne sono, ma... Oh, in Italia siamo il paese al mondo con più forze dell'ordine diverse, più gruppi. Siamo quelli che ne hanno di più. E siamo un paese piccolo. E la criminalità c'è lo stesso. Ma poi appunto parli di criminalità quando adesso chi organizza i rigi danno 6 anni, capito? Ma hai sentito? Avete sentito quest'ultima? Aspetta, i rave, la legge è talmente vaga che rischiano anche le occupazioni scolastiche, gli scioperi in fabbrica. I gruppi più di 50 persone. Perché la legge non parla di rave, parla di aggregazioni. Più di 50 persone. Quindi si rischia anche quando si occupa una scuola per uno sciopero. Io l'avevo detto, l'hanno votata, andiamo al fascismo, tutto quello che ha promesso questa, perché sono andati a votare i vecchi di merda, sono andati a votare i vecchi di merda, hanno votato a questa. I vecchi dopo i 50 anni non devono più votare, perché loro sono con un piede alla fossa. Ma già incalliti proprio in generale. Ma a parte quello non capisco un cazzo, dovete, allora, dovete votare voi, dovete votare voi, perché voi avete una vita davanti, i vecchi, cioè, non devono votare loro, la loro cazzo. Si parla di democrazia quando effettivamente, appunto, anche per questa legge io non sono maggiorenne e non ho avuto voce in capitolo, quindi di che democrazia stiamo parlando? Però è stato votato il guarda, sta legge qui è assurda. Ma, però, ma sarebbe da organizzare 20.000 persone e 20.000 feste diverse, capito? Così si, cioè, abbiamo tanti di quei problemi in Italia. Questa si preoccupa dei rave, che i rave li hanno sempre fatti. Ma sai cos'è, mamma? La gente adesso non si va a drogare alle feste, si trovi in strada e non cambia un cazzo, la realtà è sempre più evidente, capito? La dittatura, noi andremo alla dittatura con questa pazza. Ma guarda, questa è una pazza la Meloni, non è una che sia, è una pazza. Ma già che è cristiana. Cristiana, parliamone. Parliamone, perché la religione cristiana cattolica non ha mai detto di perseguitare nessuno. Ah, però lei si reputa cristiana. Aspetta, però contro quante cose? Lei è fortemente razzista. I cristiani non sono razzisti. Allora, la vera religione che poi i preti l'hanno girata a cazzi loro, i preti pedofili del cazzo, aspetta, è un altro discorso. Sono discorsi diversi, aspetta. No, non ridevo per quello. Sono discorsi diversi. Proprio la religione cristiana di base è abbastanza razzista. No, perché andavano a fare le crociate in tutto il mondo, dove loro andavano. Quella è stata la Chiesa, non è stata allora la vera religione cattolica. Quella è la Chiesa, la manipolazione che ha fatto la Chiesa della religione. Ma è nata insieme a quello. No. Allora da dove è arrivata? Allora, la vera religione cattolica, io ti parlo dell'essenza di quella che è la base della religione cattolica, di quella che Gesù Cristo veramente predicava, che Gesù Cristo era un uomo non sceso dal cielo, non nato in una grotta per opera dello Spirito Santo. Gesù, no, ma sono cose, allora, che hanno scritto, non ci sono, allora, prove. E chi le ha scritte, allora, erano le stesse persone che sono andate a fare le cazzo di crociate, posso, con i cavalli, posso, in tutto il mondo, a imporre la loro religione. Posso parlarti e dirti quello che so io? Allora, Gesù di Nazareth, che poi l'hanno chiamato Gesù di Nazareth, è realmente esistito. Comunque, quest'uomo che... Ma... un uomo che duplicava il pane, vecchio. Ma no, sto dicendo... Ma non mi ha capito. Non ti sto dicendo quello che ti racconta la Bibbia. Tu mi dici Gesù di Nazareth. Mi fai parlare? Cazzo di cazzi. Parlare? Perché non mi fai parlare? Perché è esistito veramente uno che andava a professare questa religione nuova. Questa nuova religione era basata sull'amore, era basata sulla condivisione, era basata sull'aiutare il prossimo. Era una religione con principi buoni, era basata sul perdono. Poi, guardate in termini futuristici, un po' è comunismo. Infatti, già è stato poi, il socialista della storia. Poi, questo era il vero Gesù, quello che ha messo su la religione cattolica. Poi, aspetta, c'è chi ha scritto i Vangeli, che ne ha fatto un'epopea, che ha scritto i pani in vino, tutte queste puttanate qua. Ma quello perché questa persona qui ha acquisito talmente consenso da parte del popolo, perché quello che professava, l'amore, il perdono, erano idee che piacevano. Fammi parlare. Cioè, io ti dico questa cosa qui perché me l'ha spiegato un teologo, non te lo dico così perché me lo... Sai chi sono i teologi? Quelli che studiano comunque queste cose qui. No. Ah. Chi sono i teologi, dai? Chi si fa semplicemente solo domande senza avere risposta. Non è vero. Guarda, il mio... Sbaglio. No, il mio insegnante... No, deriva da teologos, teos, Dei e Logos e Logica, quindi lo comunque il mio insegnante alle superiori di religione cattolica in realtà non ci insegnava la religione cattolica, ma era un teologo e ci parlava di teologia, e le sue lezioni erano molto interessanti. Non facevamo religione, noi facevamo teologia, ma cioè spiegava tante forse robe. Forse così dovrebbe essere. No, le sue lezioni erano strabelle. E ci ha spiegato proprio come è nato il cattolicesimo. A parte che il processo storico è lunghissimo. È stato proprio brutto, capito? No, aspetta, è quello che è successo dopo. Perché questa persona, Gesù, questo Gesù è esistito. Non si sa se in realtà si chiamava Gesù, è stato chiamato dopo nei Vangeli. La figura comunque. Gesù che è stato concepito per opera, è stato divinizzato. A questo, sai, i popolani, le persone ignoranti si sono attaccate a questa religione. È da lì che è nata tutta la manipolazione della Chiesa, le crociate, la guerra santa. Ma è nata da un'idea buona, semplice, giusta. La Chiesa cattolica ha preso potere, si è fatta i soldi con le crociate perché hanno ucciso, hanno derubato. Guarda che se ti vai a studiare tutto il processo dell'evoluzione della nostra religione, la Chiesa, tutto quello che tu dici l'ha fatto la Chiesa, non è, per quello che io dico sempre, la religione cattolica di base è un bellissimo principio, comunista come dite voi, ma è un bel principio. A sto punto, cioè uno dovrebbe stessa cosa con il comunismo. Il mio pensiero a sto punto è perché andarsi ad appellare a una cosa così tra virgolette vecchia e retrograda quando non è retrograda, è un pensiero tanto vecchio quanto attuale, sì, quello okay, della okay, che è super attuale, ma è universale, è alla base. Appunto, ma sì, perché è fin troppo vago, semplicemente è come dire è pace e amore, capito? Però come il professore pace amore, come io se adesso però vado in ai tempi a New York con un microfono Giuseppe, inizio a ai tempi di Gesù però erano concetti nuovi. Sì, sicuramente okay. A quel tempo erano rivoluzionari. Perché a quel tempo esistevano gli schiavi, i ricchi, la cioè a quel tempo siamo nel periodo comunque storico, le persone venivano, le donne venivano lapidate se tradivano. Quindi tutto quello che Gesù professava era nuovo. Le donne veramente, se una donna veniva, non neanche che dico che tradiva, veniva accusata di adulterio, sì, veniva so. Lapidata in piazza. So. Quindi per quel tempo là erano dei concetti nuovi, cioè assolutamente, semplicemente che comunque come i concetti dei filosofi, ma nasce allora cioè era una forma di filosofia in realtà quella appunto è vorresti tendere un pochino le gambe, scusa, no, no, cioè in realtà quelli di Gesù, magari Gesù era assolutamente, ma sai cos'è, era un mezzo filosofo. Quello che mi viene da pensare è che magari appunto da un concetto tra virgolette così bello ne sia sfociato in questo, perché, se, perché come l'uomo dici, okay, okay, è avido, ok, però come appunto dici tu che è esistita questa figura di nome Gesù, per assurdo anche se erano non si sa se si chiamava Gesù, no, io lo chiamo Gesù, è stato per chiamato dargli un così nome, esatto, ma quella figura che è esistita chiamalo magari Fabio, appunto Fabio potrebbe essere Fabio, sì, chiamalo Fabio, come potrebbe essere Giuseppe, sì, cioè no, nel senso, ma sai cos'è? E che magari da un concetto così bello appunto ne è sfociato in questa merda, semplicemente quando magari appunto si era già venduta al suo tempo, quando lui magari appunto ha visto la possibilità di stare bene anche al tempo economicamente, quindi appunto lui a persone più grandi ha venduto il pensiero e quindi si è sfociato nella merda. Quindi ok che uno professava robe belle, ma se poi appunto, tra virgolette, nella maniera più brutta lo dico, si è venduto. Comunque, ma sono stati gli altri, non è stato lui che si è venduto, se viene, capito? È come se uno viene da te e ti dice, ti do i soldi per campare la vita, smetti no, di fumare. No, ma lui, allora, cioè, lui, questa persona qui probabilmente è nato povero, è vissuto, ha professato come tanti filosofi ed è morto povero, capito? È stato poi il concetto, col fatto che comunque sia, ha raccolto, magari se questa persona qui è morta giovane, perché comunque si presuppone che è morta giovane, quindi col fatto che tanti lo seguivano, come dici tu, qualcuno si è appropriato, è successo proprio poi quello. Appunto, gente ignorante, capito? Ma appunto il problema a sto punto arriva alla base. Tu dici erano concetti nuovi, era No, io sto dicendo il concetto base, esatto, del cattolicesimo. Era un concetto nuovo. È un concetto giusto, sì, normale. Nuovo per il tempo, capito? Nuovo per il tempo, esatto. Però è un concetto che oggi dicono, sì. Io sono cristiana. Aspetta, ma tu sai cosa vuol dire essere cristiano? Sai cosa vuol dire essere cattolico? Ormai il vero concetto del cattolicesimo, capito cosa voglio dire io? Tutti dicono, ah, io sono cattolico, che per cattolico intendono? Io mi sposo, famiglia tradizionale, non faccio peccati. Aspetta. Anche la gente, capito? Dice. Non è quello, non è quello. Cioè, nella religione cattolica. Ma quello in tutti gli ambiti, tutti. Cioè, i 10 comandamenti sono stati introdotti dopo, sì. Non sono esistiti da sempre con la religione cattolica, è stata un'imposizione, okay. Che la Chiesa ha dato. E perché la gente ha detto non mi va bene? Perché la gente. Perché la gente. C'era tanta ignoranza tanto tempo fa. Come tuttora in realtà. Esatto, capito? Esatto. Il problema è semplicemente alla base, capito? E alla base, fondamentalmente, sai cosa? Noi purtroppo siamo ancora troppo ancorati ad una cultura vecchia, ad un modo di ragionare vecchio. Ne parlavamo prima, ma anche parlando in termini di legge, capito? Ci sono leggi che sono state fatte negli anni 60 e non sono ancora state mai cambiate. Mai state revisionate. A sto punto di cosa no, parliamo? Allora, alcune leggi magari. Vado un attimo in bagno, scusa. Alcune leggi magari vanno anche bene, nel senso. Ma dipende anche se vanno bene andrebbero revisionate comunque. Comunque io perché mi sono immischiato in questo discorso con Giuseppe? Da che cosa è partito nessuno se lo ricorda. Questo è l'effetto dell'alcol, eh? Probabilmente è partito da come stai. Che può essere. No, dal fatto della camera. Poi. Ci siamo venuti a parlare. Di Gesù e la natura umana è egoica. Oggi comunque sono andato a lavorare. Dove? A casa di un certo cristiano, un amico di Angelo, non so se tu. Ah, parlare. Sì. A casa sua. Che quello si fa le canne, spaccia la coca. No, adesso ha avuto. Tra l'altro ha avuto un infarto. Hai visto anche Giulia, la sua sì, compagna, che lei fa l'os. Sì, esatto, adesso lui è messo un po' come il porco, non fa più un cazzo. Fumacchia. Oh, mi ha regalato un pacco d'erba. Tu avrai detto, cazzo, ma devi anche lavorare tutti i giorni, perché lui la coltiva. Lui la coltiva, Cristiano. Guarda qua, vedi. Ma lui la coltiva, se non sbaglio. Sì, ma... Ti giuro, ma, oh, ma dove abitano loro adesso? La Vezzuola. Ah, la Vezzola. Ma capito, oggi, a parte che ci ha pagato come fosse una giornata piena, abbiamo lavorato dalle 8:30 alla. Perché avete fatto da... Mi hanno tagliato della legna fino alle 3:30, ci ha dato 50 euro e ci ha dato un pacco di ghiaccio. Ah, buono. E Giulia? T'ha riconosciuto che eri mio figlio? No, ma io ti giuro, di loro non mi ricordavo. Solo dopo che ho visto Giulia io mi sono ricordato di loro. Mm-hmm. Ma gliel'hai detto? No. Ah, non gliel'hai detto un cazzo. In discorso. In teoria dovrei andare anche sabato prossimo. Ah, diglielo, dici, guarda, ti saluta mia mamma. Se ci vai sabato, salutamela. Ho un amico. Ah, tanto Cristiano mi darà di nuovo dell'erba da fumare, sicuro. Oh, ma brave persone, no, magari adesso, capito? No, sai cosa? Quando giravano al Mojito, cioè Giulia e Cristiano non sono male. Sì, no, me l'ha raccontato. Era il giro che c'era brutto, che c'era l'ex compagno di Nadia, che lui... No, me l'aveva raccontato, cioè oggi un po' mi ha raccontato. Ma anche loro si erano allontanati un po' da quel giro lì. Che c'è stato un periodo che ci siamo allontanati tutti dal Mojito perché ci girava brutta gente. Che, ma era, non mi ricordo, Mirko mi sembra che si chiamava, sì, l'ex sì. Compagno di Nadia. Era lui che era una gran mela marcia. E rischiavi di finire nei casini anche tu perché questo era sempre pieno di coca dietro. Ah, ma questo gli facevano tante di quelle irruzioni in casa. Sì, sì. E poi ce n'era un altro, Mirko era proprio... Ma sai che dopo 3 volte che ti entrano in casa e non ti trovano niente, puoi denunciare... Ma mi sembra che a lui gli trovavano della roba. No, ma dico se ipoteticamente ti entrano in casa e non trovano niente, più dopo, alla terza volta tu puoi denunciare per accanimento e anche per, cioè, stalking, perseguimento. No, no, ma lui mi sembra che ogni volta gli trovavano qualcosa, che poi lo tenevano in carcere. Stava in carcere per un po', poi usciva. No, no, lui trovava qualcosa, se no lo tenevano dentro. Ah, quello scuro. No, vado di là, vado a mettermi in pigiama, mi lavo i denti, poi non so se guardarmi. E comunque, anche se fosse, appellarsi a una religione per comodi propri è giusto quello che fa la Meloni? No, no, no, anche tipo, ma comunque governo la religione l'ha usata come collante. Sì, semplicemente anche tu, magari quando hai i tuoi periodi brutti, magari ti appelli a Dio per, tra virgolette, sentirti meno appesantita. Quello è giusto, lo capisco, ma anche appunto, come si dice, professare una roba che qualsiasi religione essa sia, per me è sbagliato, ma in modo, ti giuro, uno se lo deve tenere per sé come cosa, semplicemente, perché appunto, ho capito, dopo, secondo me, ma per il semplice fatto che dopo diventa troppo grande come cerchio di persone. Secondo me andrebbe fatto una giusta cultura delle religioni. Cultura, non professare la religione, cultura delle religioni. Insegnare cos'è quella religione. Perché a scuola non ti insegnano la vera storia com'è, capito? Uno che magari appunto In realtà le storie delle varie religioni sono interessanti, ma non sono comunque a scuola sono limitati, non possono raccontarti la verità nuda e cruda per su com'è. Fatti oggettivi, perché no? Non possono proprio. È meglio raccontare i fatti soggettivi. Ma come a scuola, chi è che mi ha raccontato? Tu mi hai raccontato la roba alle medie, che eravate andati al coso dantesco, c'era la toga con il buco al centro. No, non di Dante, di, come si chiama, D'Annunzio. E tipo, appunto, la prof per scherzare gli fa, è perché doveva andare sempre in bagno la notte, capito? Però uno non ti dice aveva la toga con il buco al centro del pisello, perché così si poteva sbizzarre in ogni maniera a letto, capito? Uno a scuola non te lo può dire, un po' perché hai studenti minori, un po' perché appunto dovresti accollarti delle, magari, non dico colpe, ma dei pesi, che magari torna a casa il figlio magari ha capito male e racconta quello che tu non hai spiegato. Sì, anche perché il buco per pisciare la toga la alzi un attimo. Ma capito, ma se c'è il buco è perché non ti deve dar fastidio tutta sta stoffa. Una puttanata, ho detto, capito? Proprio l'esempio più banale. Ho fatto l'esempio più banale di però tutto. Questo fa capire molto. Però a scuola non ti possono insegnare la storia nuda e cruda. Beh, se sei alle superiori, perché no? Ma non lo so perché. No, poi non c'è il tempo, l'ho detto io, molto semplicemente non c'è il tempo materiale. Non si arriva al fascismo e si capito? Si speedrun. Sì, si speedrun. Si corre. Cioè, si corre durante il programma. Non c'è semplicemente il tempo. Non c'è, cioè, il tempo, se vuoi fare una materia bene. Poi se non lo so, anche letteratura, fai una torre, ti piace, una lezione passa, sei già al prossimo. Quello è vero. Non, per questo non si riesce a fare. Purtroppo gli insegnanti devono tenere dei programmi. La cosa bella, secondo me, è l'università, se vuoi. Almeno che non becchi quei professori anticonformisti. Non ce ne sono. No, io ne avevo beccati due. Questo di religione, che era favoloso, e l'insegnante di filosofia. A suo tempo, però. Cioè, anche lei non ha mai seguito il programma. E come dice lui, su filosofi di quelli maggiori, interessanti, che ci interessavano di più, li ha approfonditi un casino. Quelli minori, o che magari a noi non interessavano, spiegazione, base, da sapere i concetti base, pensiero filosofico, via andare. Cioè, questi due erano... Io, nel senso, non ho sto gran bagaglio culturale, assolutamente. Però comunque, cioè, io dalla scuola non ho preso un cazzo, capito? Io tutto quello che so me lo sono guardato su YouTube, comunque me lo sono fatto io a casa. Vabbè, Giuseppe, ma perché comunque alle scuole medie, secondo me, cioè, spiegano poco. Poi dipende dalle scuole superiori cosa scegli. Allora, sicuramente se scegli un liceo classico, io te l'ho sempre detto, l'insegnamento classico sarebbe stato il tuo. Ok, però magari appunto avrei dovuto avere materie come fisica, Cosa cazzo dici? No, fisica non la fai al classico, fai trigonometria, biologia, chimica. Adesso c'è anche fisica adesso al classico. Ma in più comunque anche trigonometria. Cioè. Ma hai poche ore la settimana, le materie scientifiche fai proprio un braccio. Esatto. Se tu quando tu hai 5 in tutte e due non sei ammesso all'esame. Esatto. Allora, guarda. Sono diventati più ignoranti, perché guarda, io credimi, quando andavo al liceo, in tutte le materie umanistiche io avevo 10. Nelle materie scientifiche avevo 4. Mi hanno sempre dato la media del 7 e non ho mai dovuto recuperare niente. Mi abbassavo la media di brutto. A parte che stavi bene in materie, bene evento negli anni 90, mamma, cioè. No, però bocciavano, bocciavano di brutto. Assolutamente, eh. Ma cioè, comunque non è che non bocciavano. Tenevano conto delle materie di indirizzo. Sì. Adesso sì. Se io tipo ti dico andavo al Cassiano e magari ero bravo solo nelle materie di indirizzo, io non andavo avanti. Perché comunque c'era l'italiano, storia. Però un po' sai che lo trovo sbagliato, nel senso. È quello il problema, perché, della scuola. Allora, quello che dicevo io, perché anch'io ragionavo così, dico, cazzo, se io ho scelto il classico, perché mi piacciono le materie letterarie, le materie umanistiche, ma vaffanculo, ma perché mi devo schiantare il cervello a fare anche altre materie? Ho capito che mi dai una preparazione a 360 gradi, perché gli insegnanti dicevano, il liceo classico è quello che ti prepara a 360 gradi, ed è vero, indubbiamente è vero. In realtà sai, adesso il classico è quello che ti forma di meno. Però quando andavo a scuola io era quello che ti formava di più. Adesso vai a fare un... Per assurdo un tecnico o un... No, sì, aspetta. Adesso è la svolta. O vai a fare uno scienzo... lo scienza applicato oppure quello che ha fatto Sal. Com'è che si chiama? Scientifico tradizionale. Aspetta. Adesso il classico veramente non serve a niente. Ma non serviva neanche allora, perché tu dovevi andare all'università, non serviva tanto, però aspetta, ti insegna il ragionamento e ti dà comunque una cultura a livello universale, ti dà tanta cultura, cioè il classico ti dà tanta cultura e ti dà comunque, ti insegna veramente molto a ragionare, ti dà un'apertura di il problema è che ti fai più cultura così adesso, capito? Vabbè, però io ti sto parlando anni 90, ti fai più cultura sul profilo di Jason Scott, che non so che cazzo sia. È un archivista, uno degli archivisti più attivi. C'è l'archivio di internet. L'archivio con la A maggiuscola. Qui c'è tutta la roba inculata dell'internet. Tu vuoi un dizionario, lo trovi. Vuoi un film, probabilmente lo trovi. Vuoi la televisione archiviata, incredibile, minuto per minuto. Ti trovi i canali arabi, ma... sì, un sacco di multi. C'è tutto lì sopra. E capito, uno per assurdo si fa più cultura stando 5 ore la mattina qua sopra alle 8 fino all'una che andare a scuola adesso, capito? È quello il cazzo di problema. Ma è cambiato tutto, Giuseppe, tutto totalmente diverso. E rimaniamo ancora, ci appelliamo al discorso di prima, rimaniamo ancora alle vecchie leggi, alle vecchie usanze, capito? Alle vecchie metodologie. Quando adesso sono veramente insufficienti. È perché ti ho detto che comunque anche nel voto non dovrebbero votare i vecchi, dovreste votare solo voi giovani. Ma se noi ci troviamo a questo punto, io non voglio dare la colpa a te, ma è colpa vostra se... Io non sono andata a votare, perché comunque... A maggior ragione, anch'io non sono andata a votare. Con i partiti che c'erano, e chi dovevo votare? Non c'era un pensiero politico che rispecchiava il mio modo ma di vedere le cose. È proprio per questo che la Meloni ha vinto, perché noi non si... almeno la metà degli italiani non ha votato. È stato questo il problema. È stato solo questo. Hanno votato pochi, hanno votato lei. Hanno votato i vecchi che non hanno niente da fare, non hanno mai niente da dire, niente da parlare. Il bello che per una volta all'anno hanno da brontolare e capito. Per una volta all'anno che possono avere voci in capitolo la sfruttano. Ma fanno. Guarda, sono più intelligenti loro di noi che noi. Appunto... Tu vuoi ridere? In struttura a medicina sai che è venuto il seggio elettorale dal comune a far votare quei 3-4 nonni che potevano ancora votare. Capito. Il seggio elettorale in struttura per farli votare, che io ho detto non ci credo, questi il voto a chi lo danno, a chi gli hanno detto i parenti, cioè perché ancora non sono stati interdetti, ma dimmi tu se sono in una struttura che cazzo capiscono? Questa cosa l'ha portato insomma il socialismo post-guerra, post-bellico. Infatti c'è un libro di Italo Calvino, che si chiama La giornata di uno scrutatore, che parla proprio di questo scrutatore che va in questi edifici, nei conventi dove ci tenevano i vecchi, i decreti. C'è gente che sta chiusa lì, che dovevano far votare. Dimmi tu, Democrazia Cristiana. Gente che sta chiusa lì dentro, che ormai del mondo fuori non sa più nulla. Ok, non è interdetta, ma quel voto. Però vedi, anche è sbagliato farli votare, ma parlando in termini democratici è sbagliato anche non farli votare. Il problema... Giuseppe, no, non sono interdetti per questioni burocratiche, ma non capisco un cazzo, perché quei quattro che hanno votato sono lì sono fuori come i coppi. Quindi d'accordo. Tu sei fuori come un coppo, io ti dico metti la crocetta lì, parente, tu lo fai. Sono super d'accordo su questo, ma parlando appunto in termini democratici è sbagliato anche allora fare... facciamo votare anche gli psicopatici, gli schizofrenici, appunto. A sto punto il problema più grande è semplicemente che un governo non può gestire 68 milioni di italiani. Ormai siamo 68 milioni, non si riescono a gestire così tante persone con poche migliaia di leggi generali. Così si fa tutta l'erba di un fascio, capito? Per fartelo capire meglio dovrei darti un libro che ho letto, che è di Thoreau. Lui spiega bene il suo pensiero politico e lui dice: secondo me per arrivare tra virgolette alla pace, per stare tranquilli, bisognerebbe suddividersi tra virgolette comunità, piccoli popoli, al massimo qualche centinaio di persone, perché così, capito, ci si conosce tutti. Se qualcuno commette un reato, capito, tutti possono avere voce in capitolo e tutte le voci in capitolo vengono accolte bene, capito? Invece a noi magari c'è il presidente dell'Emilia Romagna che ci rappresenta, quando noi non l'abbiamo né mai visto né gli abbiamo mai detto ciao e né gli abbiamo mai detto il nostro pensiero, capito? Quindi vuoi o non vuoi, veniamo siamo in troppi su questo mondo, non si può fare questo perché siamo diventati in troppi. Non è quello, mamma, ci sono ancora ettari ed ettari ed ettari di terra vivibile che non ci si va a vivere. E siamo in troppi, Giuseppe. Ma il problema, sai, il problema è che abbiamo il culo pesante. Ci piace la comunità, ci piace avere la casa in città, ci piace avere l'elettricità, ci piace avere tutte queste comunità. Queste per me sono comunità che ci fanno avere il culo pesante, che dice ok, non me ne vado a vivere tra virgolette in campagna, mi costruisco io la mia casa, capito? Ma anche giustamente. Però uno facesse tra virgolette un passo indietro e magari appunto si arriverebbe all'inizio della rivoluzione industriale, quando ok, le industrie ci sono ma sono in piccola parte per tra virgolette sostenere quel piccolo popolo. Ci sarebbe produzione, ma ci sarebbe allo stesso tempo poco inquinamento. E io te lo sto spiegando male, ma ti dessi quel libro che ho letto, allora sono curiosa di leggerlo, però come lo stai spiegando non sono pienamente d'accordo. Perché l'inizio della rivoluzione industriale non c'era poco inquinamento. L'inquinamento era peggiore di quello che c'è adesso, i prodotti erano peggiori, ce n'erano semplicemente pochi e la terra era consumata come adesso. Io intendevo proprio quello, semplicemente. Ah, l'hai espresso male allora. Esattamente. L'hai espresso male perché tu l'hai detto in un modo totalmente... Oh. Tu l'hai detto in un altro modo. Quello te lo devi leggere, ma è potente. Questo dove l'hai preso? L'ho comprato. Libreria, pagato tipo 6,90 euro. È fatto proprio bene. No, ma quel libro... Cioè, nel senso è piccolo e te lo puoi proprio risparare le piccole parti. Poi se mi hai capito, sono anche dei miei appunti, forse anche dei suoi. Nel senso, tu che l'hai letto, concordi o non concordi? Sì, cioè, nel senso, come la teoria di Gesù, nel senso, è alla base. Però, semplicemente lui ti dà almeno una prospettiva che io non avevo ancora sentito, capito? E comunque è abbastanza recente, un cazzo di americano che l'ha scritto poche centinaia di anni fa, capito? È veramente attuale come libro. Secondo me quel libro almeno coincide con la mia ideologia di politica e di popolo. Poi magari è perché ho letto solo quello inerente, però quel libro veramente, ma questo lo leggo volentieri, lo appoggio al 100%. Veramente un libro incredibile quello. Quello, ho capito, te lo porti a lavoro in pausa pranzo, te lo leggi, fai anche la figa con le amiche. Pausa pranzo, cioè io faccio i turni. Magari quando faccio notte mi tengo sveglia. Però quello, se leggi quel libro capisci anche quello che intendevo io, ma veramente il fatto che poche migliaia di persone governino un intero stato, comunque un'intera popolazione di milioni di persone, veramente troppo, è impossibile matematicamente. Tutto qua è per arrivare tra virgolette alla pace dei sensi, appunto, uno si deve si... E tu pensa quanto siamo pecore noi. Ma capito. No, ma ti dico, cioè, come pensiero è un pensiero forse molto innovativo per i tempi in cui è stato scritto. Ma in realtà tuttora, perché per sotto la forma in cui te lo mette lui nessuno ci ha pensato. O comunque chi ci pensò furono gli hippie negli anni 60, che però appunto era gente che si, tra virgolette, drogava, che pensava a, tra virgolette, a una vita in un certo senso effimera. E quindi la gente dice: questi sono drogati, è gente che non ci sta con la testa. Ma lui veramente, in una maniera più... Lui cos'era, un professore? E non... Di base un filosofo, poi non so cosa fosse. Ma sbaglio, però lui veramente ti... schematicamente te lo mette sotto una forma che tu non puoi dargli contro. Tutto qua. Se tu lo leggi, mi viene a dire: hai ragione, ma non perché ho ragione io, ma perché ha ragione lui. E io, nel senso, probabilmente se ha ragione in questa maniera è per quel libro, capito? Ne leggessi un altro magari cambierei idea, però... Ma è tanto. Però per adesso è quella a cui mi appoggio di più, perché per me è quella più sensata. Rispecchia comunque il tuo punto di vista. Anche. Poi lui veramente in così poche pagine ti mette così tanto contenuto... Sì. Cioè, questo qui, capito, te lo puoi mettere anche in tasca, te lo porti in giro e basta. Ah, infatti è un po' usurato per quello. No, vabbè, ma tanto ascolta, tanto adesso quando faccio notte qualcosa da tenere in sveglia. L'unica può essere che leggerai delle pagine e non ci capisci un cazzo, rileggile due o tre volte. Perché? Filosofia è un po' difficile. Ah. Sì, a volte magari leggi un paragrafo, ma ti sei perso qualche... Sì, ma semplicemente perché magari sei anche un pelo sovrappensiero per quello che pensa, per cui hai letto prima. Ah, ci può stare, vai tu, vai. Oddio, vado a lavarmi la faccia. Mi sa che me ne vado a letto. Che domani si lavora. Io lavoro oggi con 4-5 ore di sonno in quel bellissimo posto di merda. Ma non avete il posto statale? Sei un posto di merda. Ma dove ti hanno messo? Sono a Bagnacavallo, ma un lager. Adesso appena posso chiedere il trasferimento, chiedo il trasferimento. Cioè, ma tu ti rendi conto che questa è una struttura, a parte che è vecchia, vabbè, la struttura è vecchia, non è colpa loro, è stata costruita tanto tempo fa. Cioè, le camere sono piccole, fai fatica a muoverti, i bagni non sono agibili con le carrozzine, quindi se un ospite sa andare in bagno e lavarsi la faccia, lì non ci va perché i bagni non sono agibili. Camere da piccole da 4 persone con queste carrozzine enormi che fai fatica a muoverti, letti che non si alzano e si abbassano, cioè ti devi fare lo slalom per entrare da un letto all'altro, non si utilizzano i sollevatori, si caricano tutto a braccio, cioè nei letti alti tu la gente la devi prendere e buttare sopra i letti. Io ho detto vabbè, adesso sono in prova, sto buona, i 2 mesi. Confermato il periodo di prova, inizio a spaccare i coglioni al mondo, che o mi mandano via loro in un'altra struttura, perché gli rompo il cazzo. Tanto non possono licenziare. Non mi possono licenziare, esatto. O mi spostano da qualche altra parte, o se no appena trovo un trasferimento mi danno sicuramente l'ok. Ma se no appena lo... fai un cazzo, non fare tanto, non possono licenziarti. No, ma a parte quello, se io rompo i coglioni, la mobilità, se trovo o casa Alzheimer o la CRA di medicina, perché la posso chiedere prima dei 5 anni. Quindi se c'è una struttura pubblica che mi dice sì, io ti assumo, mi devono dare, però sotto i 5 anni mi devono dare l'ok loro. Sì. Ma se gli rompo i coglioni ogni 3x2, vuoi che non mi diano l'ok? Adesso 2 mesi sto buona, dopo inizierò a rompere i coglioni per tutto, perché lì non c'è niente che funziona. Non trovi niente, devi rimanere per forza lì. No, dopo i 5 anni sono obbligati loro a trovarti un posto per spostamento e avvicinarti a casa. Non ti possono dire di no. Sotto i 5 anni tu hai vinto il concorso lì, hanno loro diritto su di te. Ma se tu gli rompi i coglioni non penso che ti tengono, eh? Se tu dici vado via, dicono sì, vai, firmiamo subito, ti facciamo andare. Ah, sì. No, anche perché tanto, fidati. Lì... Scusa, domanda proprio curiosa, di curiosità. Tu qui tipo prendi un tot al mese, se ti spostano prendi lo stesso, puoi prendere di meno, puoi prendere di più. Allora, mo ti spiego subito, il concorso che ho vinto io lì prendo gli stessi soldi che prenderei in ospedale, infatti lì ho un livello ospedaliero, un BS3 che è ospedaliero. Se vengo a lavorare all'ASP di Imola vado sotto livello, vado ad un B1. E quindi vai a prendere di meno. Prendo di meno e ho il contratto del sociale, non il contratto del sanitario. Però... Giuseppe, facendo una base di conti, la benzina che usi, la benzina, e se lavori in un posto dove lavori decentemente, che qui si lavora decentemente, ma che tempo e voglia. Esatto, me ne frega un cazzo che prendo 100 euro in meno. No, poi 100 euro quasi ci vai a guadagnare di consumo di macchine e di gasolio sicuramente. O se no, una collega lì mi disse che c'è uno che lavorava a Bagnacavallo, che ha vinto il concorso in ospedale qua a Imola, e l'hanno messo però alla camera mortuaria. E vorrebbe il cambio e vorrebbe tornarsene là. E io ho detto, però quasi. Però pensaci, se rivuole il cambio ci sarà un motivo. Dici tu in camera mortuaria? Perché dice che lì si rompe il cazzo che non fa nulla. Secondo te c'è qualcosa che non va, eh? Magari la puzza, la gente... Se non fai un cazzo perché ti dovresti lamentare? Quello me lo sono chiesto anch'io, cioè, perché... Nel senso, uno... E il sogno di tutti è andare a lavorare e non fare un cazzo. Questo adesso, capito, è di gira, non faccio niente, quindi mi passa la voglia. Questo vuole tornare a lavorare lì. E ti dico, lì è un postaccio, ma non per i colleghi o per gli anziani, è un postaccio perché Giuseppe sembra un posto di lavoro di 50 anni fa come organizzato. Sinceramente io, vincere un concorso statale, anziché andare a stare meglio del privato, vado a stare come nel privato. Ma se no, mamma... Cioè, è proprio degradante. Certo, ma nel senso, visto che non possono licenziarti, non fare niente. Ma, cioè, proprio... ma non fare niente, purtroppo sei in un'equipe che ce ne sono 40, dopo finisci per vivere male con gli altri colleghi, capito? Cioè, quindi se decidi di andare a lavorare, tanto vale che il tuo lo fai. No, ok. Se no, come dici tu, ti fai della gran malattia e te ne sbatti i coglioni. Ma non è neanche... Ma è vero, ma giocatela con la malattia. Adesso sono nel periodo di prova, Giuseppe. Sì, no. Dopo la... Quando è dopo inizia a rompere il cazzo che non c'è la roba, che non ci sono gli ausili, che voglio le rivalutazioni da parte del fisio. Fidati che inizio a rompere i coglioni, perché se poi mi dicono ma le camere, da un reparto all'altro mi sposti le isogravità per bilanciarmele. Perché lì guarda che gli altri operatori che sono là dentro sono proprio ignoranti come la merda. Infatti ho detto, ma questi dove cazzo hanno studiato? Che non so, questi non sanno un cazzo. Cioè proprio ignoranti che criccano di brutto. Ma il problema dell'Italia è veramente, cioè, ora non dico la metà degli italiani, ma quasi sono analfabeti, ma... Cioè, ma veramente ho dei colleghi che sono, cioè, per carità, tranquilloni, ma proprio ignoranti. Ah, ma poi a parte che adesso sei in un ambito appunto statale, cioè, cosa ti aspetti? L'ambito statale è proprio, si sa per eccellenza che era... Ci sta la gente che o appunto è stata raccomandata, o è gente che non c'ha voglia di lavorare, o comunque sono vecchi che appunto come... A suo tempo erano già dentro, hanno fatto la riqualifica e buonanotte. Ma a parte quella era una cazzata entrare come una volta da professore. Adesso però non è così semplice. Ah no, adesso no. Adesso non è così semplice. Ma una volta diventare garantire. Professore bastava che avevi un diploma. Vabbè, a me tanto non me ne frega un cazzo, gli inizio a rompere i coglioni, fra 2 mesi gli spacco i coglioni a tutti quanti. Ah, sì. Così appena gli dirò voglio il trasferimento per un altro posto, mi firmano immediatamente, ci dice ce la togliamo dai coglioni. Sì, sì, perché fidati, quando inizi a rompere i coglioni al geriatra, al medico, al fisioterapista, al RA tutti i sacrosanti giorni, con cose giuste che non ti possono dire, no, non hai ragione, perché io so che ho ragione, però diventi un problema perché sollevi fuori tutti i problemi anziché stare zitta, ciaone, fidati che gli stai sul cazzo, fidati che dopo non ti possono dire niente perché hai ragione, però iniziare ad avere una spaccacoglioni ogni 3x2 diventa pesante, diventerò una spaccacoglioni, infatti non vedo l'ora di fare la spaccacoglioni, cioè mi divertirò tipo solo enigmista, che ce la facciamo oggi? Quello è il bello di essere statale, che non ti possono cacciare. Perché devi proprio uccidere qualcuno perché ti caccino, sennò non ti possono cacciare loro. Anche questo è andato un po' non giusto. Perché? C'è gente che magari appunto non è qualificata, c'ha 60 anni, ancora magari... Lavorano male. Ma allora, non ma è... Allora, sai cosa? Non è il discorso di lavorare male. Secondo me è proprio il discorso che lì dentro manca il concetto del rispetto dell'anziano. Lavorano male perché appunto anche loro sanno che non possono essere cacciati e non gliene frega un cazzo. Ma non funziona... Allora, primo ti spacchi tu fisicamente. Perché se una persona è rigida e pesante, io ho letto a 2 metri da terra, perché me la devo caricare in spalle e metterla a letto? È degradante per la persona... Per la dignità della persona è degradante. A questo punto è degradante anche a lavorare dentro i pozzetti, che ne esci zozzo, però. Giuseppe, però sono persone fragili. Anch'io posso dire sono fragili. No, sono persone che hanno delle comorbità comunque. Sono persone che sono state valutate con un'isogravità e tu la prendi e la sbatti sul letto come un sacco di patate? Non è normale. No, però... Capisci quello che non è dignitoso, primo, sì, secondo, capisci quello che voglio dirti, semplicemente appunto se tu sai che anche se il tuo lavoro lo fai di merda non possono cacciarti, cosa preferisci? No, non è che loro sanno che lo fai di merda non possono cacciarti, sono semplicemente persone che sono state abituate a lavorare così, anche. Non hanno la cultura del lavorare bene, non hanno la cultura del rispetto, e hai capito? Semplicemente anche questo, nell'ambito lavorativo c'è tanto nonnismo, se tu arrivi tra virgolette giovane, che sei lì da neanche un mese, ma magari hai più esperienza di tutti, e per assurdo ti metti a dare direttivo consiglio, la gente ti strippa contro, ma dici, oh, ma chi sei? Ma io questo non lo faccio, perché no, adesso 2 mesi sto tranquillo. Ma potresti farlo. Certo, ma tanto io fra 2 mesi sai che vado a rompere i coglioni? Alla coordinatrice, ai 2 RA, al fisioterapista, al geriatra e al medico. Mica rompi i coglioni ai colleghi. Io vado a rompere i coglioni a chi gestisce. Andrò ogni 3x2 in ufficio a segnalare, scriverò delle gran mail in cui questo non va bene, in cui questo è da rivalutare, in cui quest'altro non va bene. Però anche 2 coglioni. Cazzo me ne frega a me. No, assolutamente. Cioè, però. L'obiettivo mio è che quando chiedo il trasferimento questi mi diranno subito di sì, perché io so che so lavorare bene. Quindi sapendo che so lavorare bene, questi non mi faranno andare via. Ma spiegami un attimo una roba, il contratto indeterminato. Come funziona? Più o meno come lo statale, anche se lavori di merda, non fai un cazzo, non possono licenziarti. Esatto. Solo per giustificati motivi, ma tipo la ditta sta fallendo, hai fatto qualche cavolata fotonica sul lavoro, non fai niente, non possono... No, lì ti fanno 3 lettere di richiamo, ti licenza, inadempienza lavorativa. Ah, ma quello anche nello statale, cioè tu non è che vai al lavoro, ti metti seduto e dici no, io oggi non lavoro. Non intendo quello, capisci, nel senso sei lento, cammini lento, cioè proprio... Allora, nel privato sì, è più facile che ti fanno le lettere di richiamo. Parli e ti cacciano. In termini proprio di... Nello statale... Di allora, nello statale se sei lento ti parlano dietro, però è più difficile che ti licenzi. No, nello statale, cioè, è più difficile anche perché tu mi fai una lettera di richiamo per inadempienza lavorativa perché sono lento, ti sbatto un certificato di un dottore, ti inculo io a te. Sì. E non funziona così con è un po' più difficile, sei un po' più tutelato nello statale. No, diciamo. Sei un pelino più, più tutelato, hai più tutele su alcune cose, sì. Dove l'hai ascoltato lo stadio? Ma scherzi, bro. In questo, il pop non è essenziale. Ma che cazzo? Sì, la città. Ma oggi hai visto Mia come dormiva sopra di te quando ti sono venuto a lasciare i 20 anni? No, no. C'era lui sdraiato sul fianco e questa che gli dormiva sul sedere così di tacco. Sì. Sì. Quasi volevo fare una foto, ma era bellissima perché era appollaiata così sul tuo sedere. No, che tu dormivi. Ho sentito te entrare e calpestare una bottiglia e dire: ma che cazzo, ma perché ti avevo messo i soldi lì sotto al joystick? Poi sì, perché ho detto: ma che cazzo, perché dico questo mo se si sveglia mi rompe i coglioni. Gli ho messo i soldi, mi rompe pure i coglioni. Per quello che cazzo. Svegliato. E tu c'avevi Mia che ti dormiva addosso, come non l'hai sentita? Ma io mi sveglio solo quando apri la porta. Dal momento che apri la porta io mi sveglio, non so perché. Ma mi apri la porta io. Come fai? Mi dà un fastidio. Come faccio? Ma basta solo. Per esempio che c'è il poster che struscia. Io come sento quello strippo. Tu la mattina che vieni qua a prendere i vestiti. Io raramente ci vengo. Strippo! Mi svegli, capito? E non si chiude a chiave questa cazzo di porta, non so il perché. Non va la chiave. Prova a chiudere. Oh, andava. E rimane bloccata a metà. Secondo me si è scalata la chiave. Si è scalata la chiave. Ma vedi? Si è scorto qualcosa. Che cosa? Allora, come ci dobbiamo qua? Ma guarda che spazio c'è. Non qui c'è un pochino di silicone. Ma la persona è una cosa. Me ne ha scritto Ed. Riballo! Io... Dai, va bene. Daghe. Ah, io sono qui a casa, ti devo dire. Ok. Dai. Cioè, non ci sono ancora mosse, dai. No. Ma con chi sei? Con Antonio. Ciao. Bella. Bella. Dai, io... sono dalla concessionaria delle auto, quindi tipo dai. Ora mi ci vorrei almeno. Va bene. Adò. Ciao, adò. Ciao. Ma la salsa mi secondo me si è documentato, quindi mi scalo l'altra birra. Come on, come on. quando? Sei sicuro che è il tuo? No, secondo me quello è il mio. Mi aveva regalato Susanna un tot di accendini. No, vabbè, nel senso. Ho portato quanto più che la gatta, eh? Vero che è una spacca cazzo? No, alza palla, vai. Quello che tu non sai che ho registrato tutto, vai. Quello che tu non sai. Io lo so che è registrato. Ma io lo piano da anche male. Da quando ho smesso di pipare la mia sto bene, tra l'altro. Guarda qua. Anche mia mamma, è quello, fra. Penso, sì. Solo quello, vacchio.